livre Bidon, Quarta Puntata. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Bonjour Bidon. Io sono Leonardo Piccione e sono stato lasciato solo dal mio compagno di avventura che non so dove sia in questo arrivo, momento. Sto arrivando, aspetta, buongiorno, buongiorno. Dove sei, Angelo? Io vai, vai avanti, sto arrivando. Ma non so che dire, ci eravamo preparati una cosa e tu aspetta, non aspetta, c'ho un problema, vai, di una cosa, di buongiorno a tutti. Ma dovevi fare una cosa e non arrivi in tempo. Ma che è successo? Oh, sto avendo un problema, mi si è schianciato lo scarpino, mo arrivo, ma aspetta. Ma chi sei, Sagan? Sì, sono Sagan. Ho il piede un po' più grande di Sagan, c'ho un 48. Aspetta, che me lo rimetto. Aspetta, sto arrivando. Lui ha vinto una tappa del tour con uno scarpino. Figurati se io non riesco ad arrivare a una postazione radiofonica. Ci sto arrivando, dai, vai avanti, vai. Ma non so che dire, vabbè, buongiorno. Improvvisa, di una cosa su Cagliari, vai. Su Cagliari? Sì, dai, so, la lo sto mettendo. La puntata di Bonjour Bidon. Ma dai, Leonardo, ma cavolo, ma ti devo proprio dire tutto. Ma non è il mio ruolo, ma c'eravamo. Eccomi qua, sto arrivando. Finalmente. Ma buongiorno a tutti, ecco. Sono Angelo Trofa e sono arrivato con lo scarpino. Era ora. Sì, come Sagan. C'ho anche gli occhialoni di Sagan, quelli che c'aveva lui ieri. Non ti stanno per niente bene, però. Vabbè, perché a lui stavano bene. Sì, lui sta bene tutto. Non facciamo i polemici. Ora, con tutte e due le scarpe, iniziamo. E buongiorno e benvenuti sì. Alla puntata odierna di Bonjour. C'hai il fiatone, io direi di calmazione. E secondo te, cioè, sto correndo, cioè, adesso dicendo così sembra che siamo in un posto enorme, però sono riuscito ad arrivare ce con entrambe fatta, le scarpe. Mi hai fatto sudare freddo. Va bene, allora, come va? Siamo ormai in diretta da qualche giorno e tu a Cagliari ci sei da una settimana. Come quasi va la tua permanenza? Settimana. Va bene, se non fosse per il fatto che Cagliari è un su e giù continuo, che io non mi aspettavo. Avrò perso 200 o 300 grammi da quando sono arrivato, che mi fa piacere. Però non me l'avrei detto. Vabbè, perché la leggenda dice che Cagliari è costruita su sette colli. Su sette colli, come Roma, sì. Insomma. È Roma che è come Cagliari. Ah, giusto, è sì, diverso. Sì, vabbè, sì, comunque. Come Bari e Parigi. Immaginati che con tutti i sette colli io sono comunque grasso e abito a Cagliari. Questa è una bella impresa, complimenti. Sì. Vabbè, comunque, il peso è uno dei temi di ieri, perché a fine della tappa c'è stata una bellissima intervista a Betty Hall, che è arrivato quinto. Bella. Questo ragazzo ha la prima partecipazione al Tour de France, che ha detto cose bellissime perché comunicava un suo entusiasmo veramente dilagante e ha detto che sta bene come non mai perché è magro. I ciclisti devono essere magri. Tu che scrivi di ciclismo devi essere magro, caro Leonardo. Anche per scrivere, non solo per andare in bicicletta. Si sente magri. Il peso della penna. No, e questa cosa della magrezza è un tema importante del ciclismo moderno. Certo, non lo era qualche anno fa. Io ieri ho letto questa storia bellissima di Jean Robic, siamo nel 1953, che in cima al Tourmalet, per affrontare la discesa in modo più stabile, simulò un incidente meccanico per farsi mettere sulla bici una borraccia piena di piombo. Ah, ce lo sapevi. Una borraccia che pesava 6 o 7 kg per essere più stabile nella discesa del Tourmalet. Solo che poi cadde due volte perché non era abituato a guidare una bici così pesante. Ma nonostante tutto vinse quella tappa e conquistò la maglia gialla. Ah, quindi diciamo la borraccia non la utilizzò altre volte. Sì, probabilmente sì, ma non lo sappiamo. Mi sento tanto Beppe Conti in questo momento. Non sì. È un sentimento troppo divertente. No, è bellissimo essere Beppe Conti. Anzi, parliamo grande, a mille grande Beppe Conti che ci sono all'ascolto. Ma la tappa di ieri è una tappa che forse qualcosa ha detto, ma per parlare della tappa di ieri arriviamo a chiamare in causa il nostro super testimone, il nostro super ospite, in realtà la terza parte del nostro duo, se si può dire. Abbiamo da Milano con stacchetto Filippo Cauz. Sì. Oggi c'hai avuto anche lo stacchetto. Oggi hai avuto anche lo stacchetto, Filippo. Come si sente ad avere uno stacchetto? Si sente che non l'ho sentito, puoi ricantarmelo tu, per favore? Certo, pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Sono commosso. Che tempo c'è a Milano, Filippo? Buongiorno. Che tempo c'è a Milano, Filippo? A Milano c'è un bel venticello fresco, va bene, oggi si sta proprio bene, non mi posso lamentare. Va bene, allora. Per cui non posso perdere le scarpe come te, Sagan. Sagan, tra l'altro, ci ha messo molto meno a rimettersela, a differenza tua. Sì, e vabbè, ognuno ha i suoi talenti, diciamo. Sagan ne ha parecchi e Purito Rodriguez ieri li ha sintetizzati con un tweet. Angelo, tu l'avevi letto? Assolutamente, ieri la tappa vinta da Sagan, come saprete, ed c'è un bel tweet di Rodriguez che cita Einstein e dice tutti sanno che una cosa è impossibile, poi arriva Sagan, che non lo sa e la fa. Ieri una bellissima vittoria di Sagan. Sì, al posto di Sagan in origine c'era uno sprovveduto, nel modo di dire di Einstein. Sì, ma... tanto sprovveduto non è Sagan, no, mi sembra. No, però è bello il tweet. Parliamo però invece della tappa di ieri. Abbiamo detto sì, vinta da Sagan, ma una volata un po' particolare. Filippo, che volata è stata? È stata una volata molto molto lunga e convulsa. Io ho avuto l'impressione che a un certo punto Sagan non sapesse bene cosa fare. Tanto che forse sarebbe bene mettere in giro la leggenda metropolitana che se la sia staccata apposta la tappa dal pedale, così che almeno e potrebbe anche essere una botta di vita a questa volata, perché si è trovato da solo a guardarsi intorno dicendo boh, ma gli altri non giocano con me, faccio da solo e va bene, si è inventato questo contrattempo immaginario e ha tutto da fare. Va bene, Sagan vince, era tra i pronosticati, quindi ormai, Leonardo, sicuramente la maglia verde sarà sua. Guarda, sicuramente non lo so, le probabilità sono altissime, c'era questa statistica pre-tour, secondo un sito inglese, non mi ricordo, ma anche noi l'avevamo detto nella nostra preview, Sagan, c'erano in questo tour almeno 11 o 12 tappe adatte a Sagan. La prima non l'aveva vinta, la prima volata, anzi è andato male. Ieri ha cominciato a vincere e non so se si fermerà presto. Invece qualcuno ha perso ieri, perché Sagan ha vinto e hanno perso in due in particolare, in molti, tutti quelli arrivati dopo, però in due in particolare, Philippe Gilbert, che ieri ha avuto l'onore di una tappa del tour che partiva da casa sua, da Verviers, poi si è perso nello sprint, è arrivato 22esimo se non sbaglio, gli è mancata proprio lo sprint finale. E ha perso anche Van Avermaet, perché è arrivato secondo, forse ieri l'altro favorito insieme a Sagan e a Gilbert era lui, è arrivato secondo, quindi è stato battuto da Sagan nettamente, e forse però su Van Avermaet c'è da dire qualcosa in più riguardo la sua squadra, riguardo come ha gestito il finale la BMC. Sì, perché la BMC comunque correva anche con Porte, che a un certo punto ha fatto una specie è di attacco. È stato davanti al gruppo, non si è capito cosa volesse fare. Filippo, tu hai capito cosa voleva fare? Porte è contador anche alla sua ruota a un certo punto, all'inizio della salita, dello strappo. Ma premetto, scusami, che Van Avermaet in realtà è arrivato quarto e non secondo. Ah, è vero, è andato... Però certo. Questa cosa mi permette di usare l'espressione che ha usato Bettiol, ovvero è arrivato un capellino indietro. che è un'espressione che d'ora in poi vorrei che usassimo ad ogni puntata. E la BMC ha fatto un gran casino, io non ci ho capito veramente nulla, però questo casino che ha fatto la BMC ci ha permesso anche di vedere con un occhio un po' più approfondito come si stanno muovendo gli uomini di classifica. Eppure è chiaro che non era un arrivo che doveva dire qualcosa per la classifica, eppure vuoi perché Porte, che da capitano non è quello che ti aspetti a fare il gregario, vuoi per come ha impostato questa salita finale, qualcuno è voluto andargli dietro, Porte ha provato a staccare, non ha provato, non si è capito, non so, io non ho visto intervista a Porte, se voi avete letto qualcosa. No, niente di particolare in realtà. Contador ha provato a stargli dietro ed è letteralmente esploso, cioè fa una sbortia alla Beauclair a un certo punto, Contador cercando di tenere la ruota di Porte. E alle loro spalle, penso proprio perché Porte si è visto davanti, qualcuno ha provato a risalire. Io ho visto benissimo Jakob Fuglsang. Sì, vero, vero. Ha salito con una facilità incredibile e addirittura a un certo punto si è trovato in mezzo alla volata, ha rallentato. Quintana anche è salito molto bene, portandosi a ruota Chris Froome, perché gli Sky, se andate a rivedervi la salita, non hanno fatto neanche ieri il gioco di squadra. Ora, io penso che gli Sky faranno un gioco di squadra perfetto, ma seminiamo Zizzania comunque, perché questa cosa ci aiuta, e andiamo a vedere che Geraint Thomas e Chris Froome ieri hanno fatto un finale ognuno per conto suo, con tanto che Froome alla fine si è quasi gettato in volata per arrivare al traguardo a ruota di Thomas. Sì, e poi sono arrivati uno dopo l'altro. Li vediamo uno dietro l'altro. In realtà hanno fatto un finale completamente diverso, sì. E non lo so, io Thomas ho visto abbastanza bene, non bene come Fuglsang e Quintana, ma conta poco questo finale dal punto di vista della classifica, sì. Ma ci serve per parlare un po' a vuoto in attesa delle tappe. Sì, certo, assolutamente. Io sintetizzerei con un Port vogliosissimo, probabilmente domani sarà uno dei primi a muoversi e vedremo, però ne parliamo con calma. In realtà c'è un altro uomo che non si capisce mai se è un uomo di classifica o meno, che è Daniel Martin, che invece non lo sa neanche lui credo sia arrivato secondo, se non sbaglio. Ma sicuramente è stato più brillante tra questi. Tra l'altro una tappa, quella di ieri, caratterizzata anche da una fuga che ha avuto un rimiscolamento a un certo punto, con protagonista un misterioso De Gendt, Filippo. Che cosa che ha fatto? Che voleva fare ieri De Gendt? De Gendt voleva fare quello che fa De Gendt ogni volta che sale in bicicletta, ovvero aumentare l'entropia dell'universo. Casino totale. È partito. È portato in fuga due attaccanti straordinari come Calmejan e Berichon, per cui era un terzetto perfetto. De Gendt ci ha dato come un passo, ha ripreso la fuga, ha rilanciato lui, ha lanciato il contrattacco. Talmente come un pazzo che si è trovato, che è stato in primo poi a saltare fuori tutto quello che aveva nelle gambe e a saltare in maniera clamorosa. Alla fine è stato attaccato anche dal gruppo. per cui viva Thomas De Gendt, assolutamente sempre di più di corridori. Oh, che se c'è una fuga però c'è anche qualcuno che tira dietro e abbiamo incominciato a conoscere il fratello grande, certo. Di io Sagan. Io spero di parlarne presto in uno dei post di commento al tour, perché Yuri Sagan ieri è stato straordinario, il suo primo Tour de France, il suo primo grande giro se non sbaglio, è sempre tacciato di essere presente un professionista solo perché c'è il fratello minore che è Peter Sagan, invece ieri ha fatto un lavorone in testa al gruppo per tenere la fuga sempre a portata di ricongiungimento, e poi è arrivato tipo terz'ultimo, quart'ultimo, grandioso lavoro di Sagan, di Yuri Sagan. I due mi ricordano in qualche modo, con mutatis mutandis, Serse e Fausto Coppi, solo che nei fratelli Coppi quello estroverso era quello scarso, invece tra i due Sagan quello estroverso è anche quello più forte. Vedremo quali altri talenti ha Yuri Sagan, speriamo di scoprirlo prima della fine del tour. Ma c'è... ricordarci i fratelli Jalabert, forse. I fratelli Jalabert anche, certo. O i fratelli Schleck, visto che eravamo in Lussemburgo. I fratelli Schleck, certo. Dove non si capiva quale dei due era quello estroverso tra gli Schleck. Comunque, una nota di colore che so interessa particolarmente me e Filippo, che siamo gli anime artistici. Siamo tornati in Francia, finalmente qualche installazione ben fatta nella provincia francese. Ieri particolarmente una bellissima con la maglia gialla. Filippo, l'hai vista? No, ce n'è stata una assolutamente commovente per il mistero che si portava appresso, perché era un grande campo da calcio su cui c'era disegnato, spero di riuscire a spiegarlo a parole, poi metterò lo screenshot nei commenti su Facebook. Il disegno prevedeva una grande maglia gialla tratteggiata per dello spazio di carta o qualcosa di simile che prendeva quasi l'intero campo da calcio. Sopra come faccia c'era uno smile, il classico smile. Al centro, all'altezza diciamo del, non so se dello stomaco o dell'intestino del potenziale personaggio che vestiva questa grande maglia gialla, una comitiva di bambini si muoveva a vortice. Dai, era una citazione colta di Dumoulin al Giro d'Italia. A questo punto o era vogliamo Dumoulin in maglia gialla, esatto, o era uno sponsor, il Malo, non so, può anche essere che le grandi aziende investano anche su questo, oppure non lo so, sarebbe interessante avere delle spiegazioni e speriamo ce ne siano altre di coreografie. Qualcuno ci metta la foto nei commenti, sì. O tu stesso Filippo dopo. Vabbè, così. Però vedete, l'arte non deve essere spiegata, il ciclone nello stomaco è un simbolo. Le farfalle nello stomaco. Sì, magari. Ma quello era più un ciclone. Non dobbiamo spiegarlo. Pardon, Filippo? Poteva essere un tributo a Ciclone Bontempi a questo punto. Può essere. Comunque, delle tappe in fuga. Comunque chiudiamo il capitolo sulla tappa di ieri e parliamo del protagonista della nostra permanenza qui in Sardegna, ovvero di Aru. Ieri, come sapete, era il suo compleanno, ha compiuto 27 anni. È arrivato con gli altri, rassicuriamo tutti, è arrivato 17esimo se non sbaglio. Sì, ma c'è stata un'immagine che ha colpito la nostra fantasia, ovvero la mattina hanno diffuso un'immagine di Aru, verosimilmente a colazione, che festeggia in maniera abbastanza mesta il suo 27esimo compleanno, con della pasta in bianco e una frittata con sopra una candelina. Questa tristissima immagine ha dato luogo a Elio Turno Artemalle di raccontarci un'espressione in sardo molto, molto bella, quella di oggi, che ci dà la possibilità di far partire la nostra rubrica Il Sardo in Sardo. Esistono dei momenti di grande tensione e preoccupazione in cui tuttavia ci si sforza di sorridere. Quel sorriso allora diventa un tentativo di spensieratezza più che la manifestazione di una gioia semplice e aperta. Insomma, a volte non si sorride per una festa che c'è già, ma per il desiderio che la festa arrivi e che il momento faticoso passi. È il caso de sarriso con crogiolo, il riso con la buccia o peggio con la crosta. Una candelina accesa su un piatto di pasta in bianco indubbiamente ha arriso un crogiolo. Però ci dice molto sul desiderio di festa grande, di arriso a scraccaglio, delle risate a crepapelle da fare davanti a un piatto ben più condito e ricco di una razione ospedaliera di pasta in bianco. Risu co crogiolu, questa è l'espressione Sarriso che... Sarriso co crogiolu. Sì, prova anche tu. Sarriso co crogiolu, va bene. Diciamo che il nostro sardo non è fluente come quello di Eleotur Martemalle. E... Però poi c'è stata una torta vera, una crostata mi sembra in serata. Sì, perché la Stana ha diffuso un video con una vera e propria crostata, con tre candeline e due candelotti. Se avete modo di cercare il video, vedrete che ovviamente i ragazzi della squadra non riescono ad accendere sti candelotti e subentra, credo, un funzionario kazako, già avvinazzato probabilmente, che con un Kalashnikov li accende. Sì, c'è questa cosa. Sì, no, non col Kalashnikov, ovviamente che è una battuta, però ci arriva questo signore in giacca e cravatta, non si sa chi sia, che è paffuto, che accende questi candelotti, e grande allegria e grande stanchezza. Va bene, però sulla Sardegna c'è un'altra cosa che ieri abbiamo scoperto sulla Nuova Sardegna. Oggi sulla Nuova Sardegna c'è protagonista del tema della polemica di questi giorni, ovvero le maglie della Sky, sì, la tuta vero, certo. magica. Pare, a detta della Nuova Sardegna, che a progettare questa tuta aerodinamica sia stata un sardo, ovvero tale Luca Oggiano, intervistato oggi, che è di Sorso, vicino Sassari, lavora in Norvegia all'università, in una università norvegese, che ha fatto degli studi sull'aerodinamica e sui tessuti. La Sky prontamente l'ha contattato e da qualche anno lavora con loro, ovviamente. Ma pensa. Sì, sì. Però l'intervistatore della... In diretta questo, Pardon? Ieri in diretta è intervenuto un funzionario dell'azienda che produce le maglie Sky. Che non nomino perché sennò questo è tutto un marchettone pubblicitario per questa azienda, per cui non facciamo il nome, e ha dichiarato che è stata presentata da un sardo questo. Vedi. Però noi abbiamo una cosa che in diretta non è stata detta, cioè la dichiarazione del sardo che dice che il suo animo è lacerato, già che spera comunque che Fabio Aru, che ha danneggiato col suo studio, cioè minimamente danneggiato col suo studio, possa comunque far molto bene, quindi l'animo... Questa storia così patetica che a noi così piace, volevamo riportarvela. Cioè, Luca Oggiano tifa in qualche maniera anche per Fabio Aru, anche se è pagato anche dalla Sky. Anche se è pagato dalla Sky. A noi le cose patetiche però piacciono. Moltissimo. E infatti proviamo anche a venderle. Un qualche... ocra dedicato a lui. Lo faremo. Ma intanto però è il momento di guadagnarci qualcosa, sì. Anche noi. A proposito di soldi, a proposito di cose belle nel mondo. Di collezionisti, di cose strane. Abbiamo il nostro sponsor, per il quale noi ci mettiamo in ginocchio e ascoltiamo con grande trepidazione lo spot. Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Certo, piccolina. Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... Avevano al posto del numero 12 il 13. Ma se sai già tutto, nonno, cosa ci sta a fare? Mi fai un regalino? La collezione degli orologi d'oro sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume sulla storia del punto a croce. 850 80 90 60 70 80. Ma questa era la mia battuta. Sì, nonno, ma eri lento. No, ti riporto da tua madre. Che fastidio sta bambina. No, cioè, no, io non la sopporto. Leonardo, non si parla male dello sponsor. La bambina è simpaticissima, il nonno è simpaticissimo, è un prodotto validissimo. Chiamate. Il numero è sempre attivo. È sempre attivo. Sì, tra l'altro non costa neanche niente, sono in oro, potete fare un simpatico regalo per Ferragosto ai vostri parenti. Sì, è una buona idea. Ma andiamo avanti, per favore. Abbiamo adesso pensato a una nuova rubrica per coinvolgere voi, i nostri ascoltatori, che siete sempre numerosissimi. Finalmente, però non ci scrivete mai nulla. Sì, infatti, proprio per coinvolgervi e utilizzare tutte le potenzialità dei social media, abbiamo pensato a Vox Populi, ovvero l'intervento di quello che voi che siete il nostro oro, i nostri ascoltatori potete proporci. Andiamo con Vox Populi. Ovvero, noi abbiamo pensato di confrontarci io e Leonardo in una piccola sfida. Abbiamo un contest, abbiamo cercato le espressioni più ricorrenti nelle dirette televisive, esatto. Quelle frasi che ci fanno venire la pelle d'oca a tutti, che noi aspettiamo in maniera puntuale ogni anno, e ve le proponiamo. Vi chiediamo in futuro di suggerircene delle altre. In futuro, oggi stesso. Oggi, no. Sì, sui social media, suggericene delle altre, o votare quelle che noi vi proponiamo. Secondo me io ho trovato le migliori e parto con una particolarmente adatta, un'espressione che tutti noi aspettiamo e che oggi vogliamo sentire in diretta. Mi raccomando, Pancani, dicci la numero uno, ovvero: domani non scopriremo chi vince il tour, ma possiamo capire chi può perderlo. Bellissima, bellissima. Però questa viene direttamente seguita dalla mia, che il tour è ancora lungo, comunque vada, il tour è sempre lungo, anche sì, è bella, ma ce n'è un'altra che è più interessante, cioè è anche più, le mie sono più attuali, tra l'altro. Fulsang Haru, se è lui il capitano, lo deciderà la strada. È vero, riconosco, però ascolta questa adesso, sempre sui capitani. Ognuno di questi corridori sarebbe capitano in un'altra squadra, questa anche. Sì, è bella, però ce n'è un'altra, quella che veramente fa battere il cuore alle persone, è quella che si può adattare anche a ieri a De Gendt: ha corso più col cuore che con le gambe. Vero, vero. Però il cuore non basta a volte, perché bisogna sempre verificare la tenuta nella terza settimana. Sì. Questo è d'obbligo. La settima frase, la tua è bella, ma la settima è evidentemente quella, diciamo, più allusiva, perché queste sono le regole non scritte del ciclismo. Una delle regole non scritte è che il gruppo tiene i fuggitivi a una determinata distanza, bagnomaria si dice, e a un certo punto però succede che ormai gli inseguitori hanno il contatto visivo con i fuggitivi. Sì. Il contatto visivo, sì. Sì, sì, sì. Ma ce n'è un'altra, credo che ce l'hai tu, quella per le discese. Sì, sì, sì, è una mia doppietta, subito. Sì, in discesa è sempre così. Sconsigliamo di imitare questa posizione, perché loro sono dei professionisti. Questa probabilmente la diranno domani. Questa la diranno domani e questa è vera. No, domani non c'è discesa. Ah, non c'è, no, domani. Allora non la dicono domani, domani. Diranno nei prossimi giorni. Ma credo che la nostra decima frase è quella veramente il top. Ed è il tour. È il tour. Vabbè, ma se tu ti prendi questa, la frase migliore di tutte, è facile. Con questo ho vinto. Comunque voglio chiedere a Filippo, che fa giudice, chi dei due ti sembra abbia scelto le frasi migliori? Lo deciderà la strada. Facciamo così, lo deciderà il nostro gentile pubblico. Commentate. Petizione, perché entri anche la frase: è rimasto un capellino indietro. È rimasto un capellino indietro, la facciamo diventare calda nelle prossime ore. Aspettiamo qualche altro suggerimento da parte vostra, ma adesso. Adesso mi sa che è il momento di parlare della tappa futura, della tappa di oggi pomeriggio. Stanno per partire, mi sa. Sì, volevo sì. Aggiungere una cosa, scusatemi, su queste frasi, che secondo me ognuno di voi due potrebbe essere capitano in un'altra radio. In un'altra radio, se ci prendono. Comunque, alla tappa di oggi pomeriggio, vediamo, lo deciderà la strada, e la strada di oggi pomeriggio ce la racconta Pietro Pisaneschi col suo La tappa che verrà. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della quarta tappa di questo Tour de France 2017 da Mondorf-les-Bains a Vittel per 207 km sostanzialmente pianeggianti, che nel finale con ampia probabilità incoroneranno un velocista. Una tappa che potremmo definire termale, visto la presenza di spa e resort improntati ai salutari bagni sia nella città di partenza che in quella d'arrivo, e se vi è mai capitato di trovarvi in Francia particolarmente assetati, forse il nome della città di arrivo può suonarvi familiare. Come detto, 207 km sostanzialmente pianeggianti, con l'unica difficoltà altimetrica di giornata rappresentata dal Col de Trois Fontaines, poco meno di 2 km al 4.7%, che i corridori affronteranno dopo 170 km di corsa. Il Col de Trois Fontaines è posizionato a 37 km dall'arrivo, decisamente troppo lontano per impensierire i velocisti, che dunque saranno i deputati per giocarsi la vittoria di tappa. E andando immediatamente in sede di pronostico, Kittel, tenutario della maglia verde, è il mio favorito dopo la vittoria nella seconda tappa, con arrivo a Liege, seguita a ruota nei pronostici come nella realtà da Arnaud Demare e André Greipel. Il quarto posto di domenica potrebbe però innalzare le quotazioni di Mark Cavendish, mentre in chiave italiana il nome da fare obbligatoriamente è quello di Sonny Colbrelli, e come sempre sul lotto delle ruote veloci aleggia pesante l'ombra di Peter Sagan, che ieri ha messo tutti in riga sullo strappetto di Longwy. Per oggi è tutto, appuntamento a domani con la presentazione della quinta tappa. Vi ricordo di seguire il post tappa ovviamente su Bidon e di cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P. Au revoir. Grazie al nostro Pietro, subito al volo, non vi chiedo un pronostico, vi chiedo di scommettere, ci sono in palio due pacchi di pane canasale. Ah, due oggi? Due pacchi, sì, quindi Filippo, un nome. No, io aspetto a scommettere finché non metti in palio gli orologi d'oro sbagliati. E quelli? Non rischio. E ma dietro adesso tutti i nomi dei velocisti dagli anni 90 ad oggi, per cui è improbabile aggiungerne, mancava solo Buonni. E mancava Michael Matthews, che ieri è andato molto forte e mostra benissimo la Sunweb, occhio che Matthews adesso è terzo in classifica a 12 secondi, a buono dopo a buono, mi attenderò ad arrivare alla prancia per Steele in maglia gialla, lo sta facendo. Non credo che ce la faccia, sai, perché 12 secondi, se vince oggi ne prende 10, resta comunque a 2, domani c'è la salita, non penso, comunque. Bravissimo, perché già domani, pensavo che dopo domani. Esatto, magari oggi vince con distacco e la prende la maglia. Io dico Kitter, il tenutario della maglia verde, come l'ha definito splendidamente Pietro, anche se spero in Cavendish, perché è arrivato quarto già la prima volta. Anch'io tifo Cavendish, mi rivelo, ho una grande simpatia per Cavendish, penso che sia estremamente simpatico, i suoi tweet e anche le sue foto su Instagram sono veramente graziose, tifo Cavendish. Vero. Ma tifando mi sa che è arrivato il momento di salutare il nostro Filippo. Ciao Filippo, ci sentiamo domani. Buona tappa, ciao a tutti, buon tour. Buona giornata, buona tappa. Ciao. Buon divertimento. Ma arriviamo a uno dei momenti più attesi della giornata. Arriviamo. Più attesi da chi? Da tutti, dalla gente che ci segue, la gente mi ferma per strada, mi chiede ma quando torna? Torna anche oggi. Ovvero stiamo parlando di Fiammetta Ruglio, la nostra inviata, che oggi è a Vittel. Paese termale, sì, certo. Sì, l'abbiamo già detto, però a Vittel ha raccolto una storia estremamente bella e emozionante. Immagino, figurati. E diamo quindi la parola a Fiammetta Ruglio con i suoi resoconti ocra. Vabbè. Questa storia inizia dove la terra incontra il cielo ed il cielo incontra le fonti termali. Certo. Le fonti termali incontrano la terra e la terra incontra il cielo. Così la terra, le fonti termali e il cielo si incontrano tra di loro, ma ognuno resta a se stesso. E meno male. Perché la terra non è cielo, né tantomeno fonte termale. La fonte termale non è altro che la fonte termale che ha incontrato gli altri, ma è sempre la fonte termale di prima. È giusto. Negli occhi suadenti di Frank c'è il blu del cielo e ancor più il blu della fonte termale. Okay. Negli occhi di Frank c'è la sfida di una vita. Bravo. Entrare nel Guinness dei primati come l'uomo che è rimasto immerso in una piscina termale più a lungo. Ma che Guinness forza, è? Ma che primato? Frank, sfida i tuoi sogni. Bravo. Mettiti il costume, vai. Immergiti nella piscina termale, vai. Metti a bagno i tuoi sogni. Metti a bagno i tuoi sogni. Ma le dure leggi della sorte si incapponiscono con gli audaci. Povero Frank. Frank si immerge, ma ha dimenticato la cuffietta nello spogliatoio e si rialza. Il record di Frank dura appena 1 minuto e 22 secondi. È un fallimento. No. Frank perde la stima in se stesso, perde il lavoro, perde la casa, perde anche le chiavi della macchina. Pure. Ora, nei suoi occhi mistici ci sono sempre le fonti termali, ma con meno entusiasmo di prima. Mi ci credo. E mentre il rimpianto attanaglia Frank, un airone seziona il cielo, attonito. Bello. Madonna, che bello. Tristezza, Angelo, ma che oggi è bellissima. Ma quando bellissima. C'è il talento c'è tutto. Questa quando ci sono gli aironi c'è tutto, sì. Direi. Guarda, stai avendo un atteggiamento da piscina termale, te lo posso dire. Attonito. Sei una piscina termale attonita e mistica. Quindi mistica. Veramente. Non capisci. Aggettivi buttati lì a caso. Hai un cuore duro, non capisco duro, cosa abbiamo a sta roba, Angelo, io. So. Allora, vendere gli orologi d'oro del tour per sponsorizzare sta cialtrona che va a parlare forse non hai capito cosa vuole la gente. Questo è quello che vuole la gente, è quello che vuole il pubblico e noi siamo in linea con il pubblico. Comunque, in linea, vi ricordiamo vi chiediamo di partecipare al nostro contest. Mi raccomando, se avete sentito la nostra puntata, avrete sentito le proposte di frasi che si sentono più comunemente nelle dirette. Sì, suggeritecene degli altri. Sì, non riesco a leggere i commenti, forse qualcuno ci ha già aiutato, o forse no, li leggeremo nel post trasmissione e ve li faremo un po' un post. Assolutamente, dobbiamo, mi raccomando, votate, ve li presenteremo anche nei post quali sono le frasi. Suggeritele degli altri, commentate la puntata, siate se presenti. Volete, non è obbligatorio, ma no, ci fa piacere. È obbligatorio, va bene? Va se bene. L'avete ascoltata, dovete moralmente lasciare un commento. Altrimenti siete degli aironi attoniti. Anche va voi. Va bene. Va bene. Concludiamo con la nostra bella frase. Dai, sì, dai, sì. Leonardo. Tu che sei creativo. Rimanete col ciclismo. No, questa la usa già qualcuno. Che... Rimanete col ciclismo che tanto domani è un altro giorno. No, va bene, mi piace, va dai, bene. Lo sai che mi piace. Va bene. Dino Zantegu e poi buona tappa, ci sentiamo domani mattina alle 11 se volete. A domani. Ciao. Vieni al Tour de France. Vieni insieme a me, un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobet.